Eccoci qua, siamo al telefono con Luca dei Querch per parlare di una serata che si terrà sabato 7 ottobre al Covo Club di Bologna. Ciao Luca, intanto grazie mille di essere qua con noi su Radio Città Fucico. Ciao Mauro, grazie a voi. Allora, dicevamo, una serata il 7 ottobre un po' particolare, che si chiama Grato Cuore Release. Tra l'altro io con questa R moscia farei ripetere a te come si chiama la serata, magari non è comprensibilissimo. Grato Cuore Release? Si tratta del release party di una piccola ma vivissima agenzia indipendente di booking che opera nell'ambiente dell'emo italiano, che appunto si chiama Grato Cuore, e dopo due date di warm up in collaborazione con altri collettivi indipendenti arriva il 7 ottobre al Covo di Bologna con una serata durante la quale presenta ufficialmente parte purtroppo del suo roster, perché immagino fosse complicato far arrivare lì tutte le band che fanno parte del roster, però insomma ne presenta una buona parte. E quindi è una serata, allora definirla indipendente è un po' riduttivo, è questa agenzia quasi a livello familiare, intimo possiamo dire, piccola però molto, che porta molto verità di solito quando le cose sono così piccole, no? Non so se sei d'accordo. Ma è assolutamente a conduzione familiare, cioè si parla proprio di fratellini e sorelline. La cosa che mi piace tanto di Grato Cuore, quindi diciamo anche i nomi di Carolina, di Davide, di Claudio e di Seba, e che poi hanno, cioè, lo stesso rapporto che c'è tra loro, cioè con tutte le band e tutti gli artisti con cui hanno a che fare, con cui lavorano. E ti dico, mentre te ne parlo, tona anche dire con cui lavorano, perché poi alla fine le cose si fanno veramente insieme e poi comunque si escono sempre fuori delle situazioni. Quindi a me piace un sacco il modo che hanno loro di interpretare la figura del booker nel 2023. Mi dicevi anche che c'è un nome specifico per questa, chiamiamola, realtà underground, un po' legato al vostro genere musicale anche. Ti richiedo il nome e se puoi descriverla brevemente. Secondo me alla fine in linea generale, perché è sempre rischioso poi andare, ora che ci penso, da andare ad adoperare definizioni troppo specifiche, parlerei di ambiente emo, in senso più ampio potremmo dire ambiente alternative, underground. Diciamo che, cioè, almeno io personalmente intravedo una scena che si è venuta a creare, che è sempre più solida e si sviluppa lungo tutto lo stivale. Secondo me questo è il merito, ecco, e io la chiamerei, che ne so, scena emo. Secondo me il merito poi veramente di questa scena è di chi poi organizza le serate, invita le band, quindi dei collettivi indipendenti che nascono all'interno dei vari territori e quindi letteralmente creano dei luoghi e delle occasioni di aggregazione e di esposizione dei fenomeni underground. Un fatto molto importante di questa dinamica è il fatto che poi le band, quando vengono messe insieme in line up e suonano insieme, si conoscono, stringono legami, quindi poi vanno le une ai concerti delle altre e lì tengono contatti con altre band. E secondo me è proprio così che poi si crea una scena. Al maggio di quest'anno c'è stata, mi sento di citarla, c'è stata una grandissima occasione di questo tipo, che è stato il Venezia Hardcore. Effettivamente ci sono anche in questa serata, appunto del 7 ottobre, ci sono quattro realtà, tra l'altro provenienti da parti d'Italia abbastanza variegate e diverse. Ti chiederei una piccola presentazione, magari, oltre ai Quercia, di cui poi magari parliamo un attimino più ampiamente, quali sono le altre realtà che troveremo al Covo il 7 ottobre? Saremo insieme ai Cabrera, band proveniente dal modenese, ti dirò, tipo un emo post-rock, molto emo, molto post-rock. Poi ci saranno gli Amalia Bloom, band emo hardcore da Vicenza, e poi c'è Gli Occhi di Chi Ha Fatto il Vietnam, progetto solista, lo fai da un tempo. Che possiamo dirlo, se ti va, che è il side project proprio tuo personale. Parliamo appunto dei Quercia, definita la band che unisce tutti all'istante. Cosa significa? Che definizione è? O come definiresti tu i Quercia e la musica anche dei Quercia? Chi ci definisce così per esattezza. E nella descrizione della serata? Ah, no, ma allora quella è stata una spinta, senza dubbio una spinta di bontà, di eccessiva bontà da parte di chi ha scritto la descrizione, ma no, guarda, ti dico, ciò che sto provando è solo imbarazzo in questo momento, quindi non saprei, cioè guarda, ecco, ciò che ti posso dire è che in genere ovunque andiamo ci troviamo bene con tutti e con tutte, è sempre bellissimo girare e appunto conoscere nuove persone e vivere belle situazioni. Da quel punto di vista ti dico, ovunque andiamo creiamo un sacco di connessioni e poi ci portiamo dietro proprio tesori inestimabili con noi quando torniamo in Sardegna. Beh, allora è vero però che è una band che unisce, nel senso che dove andate comunque create connessioni, quindi un po' unisci, un po' è vero quello che c'è scritto. Da quel punto di vista sì, dai. Allora, voi avete pubblicato l'ultimo album ormai 4 anni fa e avete fatto un EP invece più recente. A cosa state lavorando adesso? Ma guarda, noi ci prendiamo un sacco di tempo per fare della musica nuova, in realtà, perché siamo sempre incasinati, siamo in 5 tutti incasinati, quindi i tempi si dilatano nell'infinito. E poi c'è anche però il risvolto positivo, prendendoci così tanto tempo poi effettivamente cambiamo come persone, cresciamo e ci ritroviamo a fare della nuova musica, che effettivamente abbiamo dei punti di vista differenti. Quindi per ora sì, stiamo componendo, però non so se sarà una di quelle volte in cui poi cestiniamo o manteniamo, potrebbe uscire qualcosa a breve come non uscire per altri 10 anni. E anche è il bello di essere indipendenti, non abbiamo delle scadenze, non abbiamo un contratto da onorare, abbiamo un impegno nei confronti di noi stessi, conosciamo tutte le attenuanti del caso. È anche un modo di solito per lavorare un po' meglio su quello che uno fa, con un po' più di spontaneità anche, senza pressioni. Ma guarda, sì, più che altro non ci prendiamo tutto questo tempo perché desideriamo prendercelo. Stefano, il nostro batterista, è in Olanda e comunque la batteria è una parte fondamentale della composizione dei pezzi, quindi finché poi non riusciamo a trovarci tutti e 5 non può veramente passare allo step successivo la composizione, quindi queste tempistiche sono necessarie. Appunto poi ne deriva che essendo passato del tempo magari riusciamo a evolverci rispetto alle ultime cose prodotte. Invece, parlando di tour, voi avete fatto un tour di 7 concerti in giro per l'Italia inizio 2023, che descrivete come una bellissima esperienza un po' scalcagnata, parlando della vostra Dacia Duster in cui eravate pigiati. Dal punto di vista di una band giovane, com'è la situazione dei live in questo momento? Oddio Mauro, ti dico, noi giovani poi non siamo, comunque tutti attorno alla trentina, ma no, ma guarda, vedo delle band di ragazzi che spaccano tutto. Poi se mi chiedi in generale come è vista la situazione live da parte, dal punto di vista di una band indipendente e che fa musica anche di nicchia, possiamo dire, perché è un genere abbastanza di nicchia, perché, questo. Sì, parliamo di nicchia, parliamo di underground. Secondo me la cosa bella appunto di operare in ambienti underground è che comunque già di base non hai ambizioni di arrivare chissà a quale folla oceanica, chissà a quali tipi di esposizione, quindi l'attenzione si concentra spontaneamente sulla dimensione live. Anche i dischi e i pezzi che vengono composti poi vengono quasi composti nell'ottica poi già di portarli live, e l'attenzione è puntata su quando poi si porterà l'album in tour, su quando poi si faranno quelle esperienze e si raccoglieranno i veri feedback dal vivo, oltre che appunto tutto il calore umano che ne può derivare. Riassumendo, ti direi, secondo me appunto negli ambienti underground c'è questa bella cosa che le band sono spontaneamente portate a voler suonare live. Allora, possiamo dire che il Covo è un locale anche abbastanza grande, no, per un certo genere di musica, perché di solito chi fa hardcore, post-punk, roba abbastanza screamo, pesante, un po' come quella che proponete voi, si trova magari in locali sotterranei, bui. Certo. Com'è dal tuo punto di vista in Italia la situazione dei locali che propongono questo genere di musica? Ce ne sono ancora innanzitutto? Non lo so, Non lo so, perché io vivo in Sardegna, quindi ogni tanto giro, faccio un salto su e mi raccontano di mini festival, di date che vengono in location che non conoscevo, oppure location di nuova apertura, e quindi lì è sempre un, cioè è sempre bello sentirlo, perché è una bella presa di fiato sapere che comunque ci sono delle nuove realtà che nascono. Ecco, a proposito di queste realtà, immagino tu abbia visto il film Margini, no? È un po' così anche Iglesias, con insomma provincia, difficoltà di creare delle situazioni punk o comunque anche solo di musica dal vivo magari? Non saprei, più che altro perché mi viene da dire che in passato i ragazzi e le ragazze del posto si sono sempre stati molto ricettivi comunque nei confronti degli eventi che poi venivano organizzati. Non saprei se adesso potrebbe essere altrimenti, perché non vengono tendenzialmente organizzate delle situazioni qua in zona, quando poi appunto i ragazzi e le ragazze più giovani dovrebbero prendere in mano il testimone e iniziare loro a organizzare le situazioni, poi si interrompe il flusso. Chissà, allora, noi adesso abbiamo divagato molto nella nostra chiacchierata in questa intervista, ma vi ricordiamo che stiamo parlando con quei Quercia, che saranno il 7 ottobre al Covo Club di Bologna insieme ad altre band per una serata che si chiama Grato Cuore Release. Consigliamo assolutamente. Sì, diciamole di nuovo queste band: Cabrera e Amalia Bloom, Grato Cuore Release Party, Check It Out. Andateci a dare un occhio e un orecchio soprattutto. Luca, io ti ringrazio molto, anche se poi abbiamo perso un po' il filo del discorso, abbiamo parlato di un sacco di robe, ma è stato molto interessante così a mio avviso. Ti chiederei a questo punto per salutarci, per chiudere l'intervista e salutare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, un brano dei Quercia con cui salutarci e darci appuntamento al Covo Club. Dai, dato che la data è al Covo Club di Bologna, mettiamo Torri. Perfetto, allora Torri dei Quercia, 7 ottobre al Covo Club di Bologna. Grazie mille Luca. Grazie a te Mauro.